Buonasera, benvenuti a tutti quanti e sono particolarmente contenta questa sera di presentarvi la nostra ospite, che conoscete, è una scrittrice, una poetessa famosa, viene pubblicata da Einaudi e qui davanti avete anche le sue raccolte e in particolare questa sera ci occuperemo dell'ultima, pubblicata appunto nel 2018, Sincope. Accanto a lei vedete Marco Forni, che lavora presso l'Istituto di Cura di Lui. Infatti questa è un'iniziativa che è concepita dall'azienda di soggiorno di Bolzano e si chiama appunto una rassegna che si chiama Natale di Libri, e questa sera abbiamo qui con noi il presidente dell'azienda di soggiorno, che saluto, e il dottor Vigna, che appunto ha concepito e realizzato da qualche anno a questa parte la rassegna. Ma Marco Forni appunto è un collega che lavora all'Istituto di Cura Dubì e ci accompagna nella presentazione della nostra ospite d'onore, che è appunto Roberta La Punta. Il fatto che ci occupiamo di poesia, in particolare della cultura latina, ci fa piacere, perché la nostra biblioteca è una biblioteca che si occupa del territorio. In questo territorio un aspetto fondante è costituito chiaramente dalla cultura anche ladina, che forse si conosce troppo poco e meriterebbe invece molto di più di essere approfondita anche nell'ambito degli studi, e la biblioteca si propone di essere un viatico, ecco, per aumentare la curiosità, l'interesse anche nei confronti appunto della cultura ladina. Vi segnalo ancora due appuntamenti, in particolare sempre all'interno della rassegna Natale di Libri. Domani alle ore 18 presso il Museo Mercantile verrà, appunto, sarà ospite Lucia Annunziata, con un grande giornalista, si confessa, e a presentarla ci sarà Alberto Faustini. Mentre per quanto riguarda la biblioteca, i prossimi appuntamenti, uno è domani alle ore 17, dove presenteremo un'altra raccolta di poesie con Federica Mormando e Bruna Maria Lago Benedi, però nella sala sud della nostra biblioteca. E giovedì 13 dicembre invece alle ore 18 in questa sala ci sarà Mattia Straziani, che presenterà il suo ultimo romanzo thriller ambientato sempre in Alto Adige. Io vi lascio subito la parola, perché sarà una serata emozionante, e vi ringrazio di essere così numerosi. Vi aspettiamo anche in biblioteca, che ha una sede proprio in questo edificio al piano terra, e siamo aperti tutti i giorni per voi. Grazie. Oggigiorno tutto è velocissimo. In quest'epoca delle cosiddette comunicazioni di massa, che rischiano di portarci paradossalmente verso una incomunicabilità di massa, poesia sembra quasi una parola obsoleta, una parola fuori moda. In contrasto con questo nostro mondo, la poesia è un fluire continuo di messaggi che si nascondono, si ricercano attraverso l'uso spesso anche metaforico, l'uso sapiente delle parole scelte per riuscire a trasmettere in modo efficace, personale, anche originale, sentimenti, emozioni, sensazioni. Scrivere è importante, tutti potrebbero farlo. Scrivere è utile e liberatorio, uno riesce a dare sfogo al suo sentire. Chi possiede una forte personalità tendenzialmente potrebbe essere anche un animo chiuso, ecco che con la scrittura allora uno riesce a tradurre il suo sentire. Può diventare uno strumento utile per ritrovarsi e iniziare a comprendere passo passo noi stessi. Ognuno di noi in luce è un piccolo poeta. La carta d'identità, secondo me, della poesia è la sincerità. Queste pagine sono intrise di sincerità. In un componimento, Vultus, io ti do tutto ciò che sono, la mia nudità in questo volto. Poesia dal latino poiesis, scusate, dal latino che è poi dal greco poiesis, con significato di fare, costruire, comporre. Roberta scrive in una poesia che condivide con un amico particolare, speciale, con cui abita la propria vita, Lois. Abitiamo poeticamente, non perché la poesia è una finitura aggiunta all'abitare, ma perché è atto di fare. Di noi che abitiamo i luoghi del corpo, nell'azione, nell'opera e nel lavoro. Cosa non farò? Io proporrò alcune mie sensazioni, alcune mie impressioni, ma farò la parafrasi, l'esposizione con parole mie di quello che l'autrice forse intendeva dire. Cercherò di limitarmi ad alcune impressioni. Entrerò in punta di piedi nei luoghi dell'anima di Roberta e richiamerò alcuni echi delle sue parole, dei versi di Roberta. Verticale è un vettore verso l'alto o verso il basso, e soprattutto nella poesia lirica. Secondo me vale anche l'impressione che il poeta sia parlato molto di più di quanto non decida lui di parlare. È il trascrittore di una voce che può provenire dall'alto, può provenire da Dio, dall'assoluto naturale, oppure emerge dal nostro inconscio. Ed è un processo di cui il poeta, il trascrittore, non è padrone assoluto. Per cui la poesia arriva a dire anche delle cose che il poeta, lo scrittore, non sapeva di poter dire. Mi piace immaginare la poesia come un sogno che si fa però in presenza della ragione. La poesia è respiro. Io questo libro prima l'ho guardato. Ha una sua struttura, la punteggiatura, la disposizione, l'ordinamento, la combinazione delle parole, la scelta delle parole. Nella pagina di copertina, rumina le visioni di notte e di giorno si alimenta di queste. Come sapete, per ruminare ha a che fare con la terra, con la materia. È l'esecuzione della doppia masticazione di cibo che è caratteristica dei ruminanti, delle mucche, delle vacche, delle capre. Però in un significato traslato, metaforico, pensare, ripensare, meditare, rimuginare, con l'idea di lenta ponderazione, si ruminando e si mirando in quelle, mi prese il sonno, scrive Dante nel Purgatorio, 27° canto. Ruminando, riflette, pensa, si fa passare attraverso la mente. mente quello che è accaduto durante il giorno. Sincope, lì in fondo, ed è un processo, un cammino, ma una volta arrivata lì in fondo è presa da una perdita di coscienza, un senso di spaesamento. Questo avviene perché tra una parola e l'altra, tra quello che noi diciamo, il tutto è anticipato e seguito da silenzi. Poi il silenzio può essere pesante, può essere leggero, può essere narrante. Roberta ha una poesia del corpo, un corpo della poesia, della carne, della lingua. Una poesia del corpo, un corpo della poesia. Oppure dei non versi, diversi. La pretesa che i versi siano diversi, scrive. Però in questa corporeità epistassi esce in questo sangue che si deposita sulla terra, al suolo, il meglio. Queste pagine sono pervase da un senso di irrequietudine, uno stato d'animo anche turbato, un senso di apprensione, un intimo travaglio. Il suo vocabolario, carne, un corpo che si ciba anche di silenzi. Le parole, bisogna leggere tante parole. E il libro per antonomasia è il vocabolario che contiene un po' tutti i libri. Una lingua, conoscerla, entrare in sintonia con essa, però è importante il silenzio e la solitudine. La solitudine non è isolamento, non è isolamento la solitudine. La morte è onnipresente in queste pagine. La nostra morte la moriamo soltanto, ma è con la morte, con il morire degli altri, che noi dobbiamo vivere. L'importanza dell'ascolto, dell'ascoltare, perché poi la parola scritta non ha un suono, acquista un suono quando la leggiamo anche solo dentro di noi. Il verbo, maiuscolo, è un duro colloquio. Il verbo è un duro colloquio, perché è una presenza che ti dice che c'è, ma quante volte accade che si dubita, che tu non avverti questa presenza e c'è un senso di spaesamento. Lettera di componimento alla morte. Mi è sempre stato amico il silenzio, ma molto di più l'ignoto e l'incognito. L'ignoto e l'incognito. Aggiungi una C, ma questo ignoto è anche incognito. Nei luoghi di Chaminades, nel maso che condivide insieme al suo amico più caro, che gli è più vicino. La corporeità nello scrivere, nella scrittura di Roberta, a cui, perché a Roberta piace la donna di cui perché questo grembo materno, queste cosce possenti, questa corporeità, questa nudità, e dunque Lois, amico mio della voce abitare, amico mio, non ho argomento sicuro di cui farti dono, se non la condizione dell'abitare insieme la vita. Abitare. Abitiamo le nostre parole. La parola dovrebbe essere un luogo sacro. Da quando iniziamo a leggerla e poi da quando iniziamo a scriverla, una devozione, un'attenzione particolare per le parole da usare. Quante parole inutili, con un profluvio di parole inutili per riempire vuoti abissali. Le parole, sentirne la bellezza, le trasformazioni interne che può avere, quante vocazioni può offrire una parola. Le parole devono, possono contare ancora, e la poesia può essere un modo per celebrare la vita nella gioia e nel dolore. Per le tue considerazioni che insomma si sente che sono di uno che scrive e che frequenta anche la poesia nella scrittura. Io faccio una lettura di 20-25 minuti sincope. Sincope è una perdita di coscienza transitoria che succede rapidamente ed è una specie di svenimento, un disturbo di ritmo cardiaco. Si sente bene, mi sembra che ci sia molto eco. In questa raccolta sincope diventa è lo spostamento di accento, o uno spostamento di accento sul corpo debole, su quel corpo che è dentro a una società capace, a una società che si dimostra nella sua bravura, tant'è che riesce a diventare anche agonistica. Ecco, dentro a questo noi capace c'è anche l'io, c'è quell'io, quel corpo debole che non riesce a stare al passo. Quel corpo che in qualche modo poi inizia a retrocedere e finisce nella solitudine non soltanto sua, ma nella solitudine che noi gli consegniamo. Ecco, questi versi raccontano, comunque raccolgono un po' un mio percorso anche di conoscenze fatte, sia di persone che anche di luoghi. Di luoghi che, così come l'essere umano, possono diventare essere soli e abbandonati. Della carne e della lingua. In questa carne ho radicato gli anni, li ho educati. In questo corpo la materia dei miei pensieri, le parole, le domande. Su questa pelle l'ambiente delle loro risposte, fino a contrarla, le vocali, le consonanti. Ho consegnato ad ogni osso della mia struttura una lettera. E da lì le parole una ad una le ho nutrite e ho appreso mentre crescevo la carne si faceva verbo. Composte membra ordinate si sono compiate, dilatate le loro cavità, e da lì io ho ascoltato, ed era voce del mio corpo che mi chiamava, e io sorda alle sue espressioni finché ho appoggiato le labbra alla loro imboccatura. Organica reazione. Ho forgiato la lingua ed essa ha compreso il gusto, e così finalmente io le ho parlato. Delle solitudini. Eppure lo vedo resistente a rimanerne accanto. Il delirio di personalità è una catena di montaggio tra la condizione di chi è solo e il bisogno di comunicazione. È voce persa la mia, che si trasforma in emozione anche quando non è richiesta. Curato ciò che appare è lì dietro le incisioni nel volto, nell'universo dei discorsi e delle parole scritte, la solitudine non è isolamento. Non è isolamento la solitudine, che potrà anche essere espansione del verso, ma rimane capitolazione dello spirito. L'infanzia che gli anni sono levati ad essere maturi, mi ricordo, ed essa ora non ha più pietà di me. Così le ombre mi diventano solide, ed io che ogni giorno mi scopro più lontana dalla sua memoria. Anemone desiderabile, una corona di capelli scuri, eppure il bianco tra la chioma che si offre teneramente. Scudo di una vita e nessuna favola. Ciononostante ho attraversato questo corpo, il suo splendore. E mi presenti, amico mio, pitture dagli occhi chiusi, pitture sulla morte, che gli occhi miei osservano il sorriso che riponi in ogni quadro. L'esistenza contenta, depositata infine dietro vedute chiuse. Stiamo, penso, ogni giorno della nostra vita in compagnia di un teschio che lì, sotto ad ogni sentimento, emozione provata, tiene bene gli occhi aperti, non li chiude nemmeno da morto. Fego, scelgo Fego, paese dalle case interrotte, eredità di un popolo sottratto e di un uomo a seppellire la madre, in aspro riferimento il beneficio di un uomo lasciato al fratello minore. Sì, scelgo Fego, mia immagine e somiglianza nella profondità, la sua voce ogni giorno venirmi incontro, la sua notizia giusta, misura, in offerta per me, che mi guarda e io la vedo, e nella compassione mi fa sapere che sono io, quel silenzio di mura, quella chiusura di porte, oscuramento io delle anche accostate, la conta dei camini spenti, quel paese del nulla succedere, quel paese del nulla muoversi, seppure l'impegno delle poche vite intorno. E mi sembra di stare io e Fego in questo tempo di fitta nebbia e assenza di rumori, in reciproca comprensione, in parità e senza il disturbo di alcun disavanzo. Dell'ascolto e della mia poesia è grado intenso l'udito. Coinvolge suoni e silenzi la riflessione dell'ascolto. Ampio dire sono queste parole. Tuttavia le parole, appunto, che scritte non emettono alcuna voce, seppure il respiro di chi le pone su carta, o meglio dire, le impone condizionerà il loro suono a intensità e volume. Ascolto dunque e sento nei miei versi declinazione e ancora di più caduta. Giungeranno ad ogni voce esterna che prenderà conoscenza di ciò che ho scritto e di come ho scritto. Da lì un altro ascolto seguirà, o forse nemmeno. A pieve, tu per me il tuo sguardo, malizioso inganno, mi poni dentro al vino giudizio e penitenza. Ascolto, senti il vino, amico mio, che non ti conosco, e ponte dal sapore fisico, sofferenza e piacere dell'alito antico. Sono certa che ti amo questa sera. La ruvida acerbità della fermentazione, il travaso delle tue parole, e sudore afflitto, splendido vacillare, come di breve morte. Dammi da bere, versami, leviamoci la sete di dosso finché saremo redenti, amico mio, che non ti conosco. Arriveremo insieme al bordo del bicchiere, lì dove corre la triste sete, stasera, in questo tempio. Mentre fuori piove il silenzio, a pieve. Morte di Sandro Pittin. Terra, angusta carne, hai saputo? Ludare un frammento. Il suo volto oggi è pietra in silenzio, severa bellezza mi fa strada. A spasso dentro le vie ricordo, ho portato i pensieri fino in paradiso e a lui affidati. Eccomi, io torno in pietra e il suo cuore è cuore d'inferno, genti di Ludaria. Incontro poche mani e tremo. Avete scordato Dio? Oppure è lui che vi ha dimenticati? Perché in questa assenza i corpi sepolti non trovano riparo, in questa assenza i corpi morti rimangono tali, creature di carne tra terra e cielo cerco, vi sarà pure in qualche sguardo vostro la primavera. Ditemi allora perché Sandro si è ammazzato. Ludaria, bellissima carne. Eppure con triste voce anch'io devo rispondere e solo dirmi sua immagine e somiglianza, poiché Ludaria è il mio amore scarno, le mie visibili malinconie. Ludaria è la mia palpabile solitudine, il mio campo vuoto, fruscio di pace che non intimidisce, l'odore dell'erba marcia che non riesco a falciare. Così dice il Signore. Dice cosa? A me mai mi dice niente. E rimango in silenzio a lungo e spesso ascolto e mi concentro, eppure niente. Non so più. Mi rimane di starmi zitta dentro per sentire meglio e scrivere e basta. Il verbo è un duro colloquio. Versi all'amico poeta, che leggi versi, mi leggi versi, ascolto e mi perdo però in ciò che vedo, pienezza del male di vivere, mentre i tuoi versi parlano di scienza, è un livido il tuo stare dentro questi muri, l'aria che non cambia odore e da anni penombra della depressione che tu preferisci chiamare Traurigkeit. Ma ti ricordo che Trauer è più profondo ancora. perché li dichiari nudo di te stesso. E mentre che i versi mi passano accanto, nemmeno ascolto, invece vedo che sì, la scienza di cui parlano con te ancora non ha scoperto cosa fare. Della lingua prima, oppure dei versi troppo lunghi. Troppa vegetazione sul terreno dalle molte lingue. Ho il verde in bocca che mi crea palude. Accresce i sentimenti, l'umido pensare, la lingua spinge in alto un velario di mosche. Sotto, lì, sotto la lingua, mio vero teatro, si svolgono le parole. Troppe parole. Sconnesse abitudini e paranoie, mi succede in bocca la confusione mentale. Fuori le risate, a volte il pianto, durano un solo giorno. Della lingua seconda, oppure dei non versi. Diversi, diversi, diversi. La pretesa che i versi siano diversi. Ah, io non capisco. Scrivo versi, non scrivo versi diversi. Scrivo e basta, e non capisco chi mi parla dei miei versi come fossero versi diversi. Diversi sono loro. Che pensano di leggere versi diversi e invece leggono versi e basta. Versi e basta. Mentre la poesia è molto lontana. I miei versi invece incollati alla pelle, ogni verso alla mia pelle. Su di me. Pascolo i giorni come le vacche, guardando dalla finestra ogni tanto e conto la riverenza a loro che mi dovrebbero appartenere, ma io non li voglio perché occupano lo spazio qui, dentro il corpo, amico mio. Non ho giorni. Nel loro corso mi vesto la notte, il vegeto, pagoda di pensieri, muovo lenta i sensi, li distillo e colo in silenzio tristezze fermentate. Dunque, levo il calice a una veste contadina, senza intonaci sul viso, per non correggere la mia comparsa. Di questa solo le mie pupille valgono, e se sanno cogliere i suoni e risolverli nel colore che meritano. Il resto. Ascolta e contempla la vita, che fuori dalla mia pelle evita i miei passi, perché fuori non si sente il rumore cupo della poesia, ma dentro suona come uno schiaffo in faccia, amico mio, ogni volta che l'affronti. Lontana sono dal mondo ciò che vedo, leggo e tempo scorso, minuti finiti, che sempre fuori così tanto succede fino al racconto, e ogni volta io sono stata assente. De anima. Nel profilo della carne mi presento. Terra promessa avuta in dono dalla natura che dal seno su verso il collo la mia partitura ha note incise tra i capillari e le arterie profonde. Ascolta, questa è musica del mio tempo, da quando il mio respiro ha dato inizio al componimento della mia esistenza. Qui. Nel profilo della mia carne ora il tuo guardare e su di me lavoro in cavo, vocabolario dei tuoi pensieri che mi graffia la fronte, lingua efficace delle profondità non dette che mi penetra la natura e oltre e non ti accorgi che stai raccogliendo il tuo sguardo sulla mia anima, mentre io, dal profilo di questa carne, vedo te, inesorabile nel tuo elemento materiale. Il ventre della poeta. C'è una vività ordinaria riposta fra il torace e il bacino, confidenza continua di visceri a voce bassa. Si pronuncia cupo e profondo da mattina a sera un linguaggio impudente che senza fare nulla si preoccupa soltanto di mangiare e di bere. E predica infame, sembra stia in continuo digiuno, è recipiente degli ingordi rapporti questo ventre in abbandono. In passato mi è stato utero, un felice grembo materno, testimone, che lì, dentro, si conferma l'esistenza. Io da fuori l'ho accolta, tenuta tra le mani, curata e cresciuta. Ora questa è cosa cessata. Do quindi ai versi un tempo trascorso al quale ho potuto dire madre. Io dimentico me stessa, eppure sono tutta in accordo col mondo. Questo è ora il mio volume, guarda dunque, risolvo i miei passi con ritmo pesante, ciò che porto con me è la vita. Quale ornamento per questo cervello di poeta sventrato dal pensiero, sempre unico del parto. Ma in questo altro tempo, il sempre è solo memoria di una sua precedente condotta. Questo ventre è il luogo dove non passa nessuno. Credo di avere ragione a chiamarlo il ventre della poeta. Sincope. Lì, in fondo, ad ogni ultimo verso, improvvisa la perdita di coscienza, lettore. Io emetto suoni su tempi deboli, che siano essi di giorni riposti o demenza, così l'alcol, così l'amore e la morte. Sono queste le mie verità. Lasciano le visioni accese persino al gelo notturno, che nella notte io le rumino, ma nel giorno io di loro mi alimento. Versi in virtù della pietà. Stabat, mater dolorosa, iusta crucem lacrimosa, dum vendebat filius, perché a un figlio che muore per questo non è dato risuscitare. Sia dunque restituito alla madre che tace appassita, alla madre che urla, addolorata virtù dell'amore. Sia questo figlio deposto nell'incavo tra ginocchio e seno, solco scavato a vita, che in questa valle, letto di lago, cavità riempita lacrime, succede ogni volta di nuovo un'attesa, poiché una madre non capisce la guerra, la madre dei mondi e dei figli e di questo soldato che uccide e non torna. Due poesie dagli istinti. Senza. Ha goduto questo corpo falsamente sostenuto carboni spenti e dimenticato cosa fossero i fuochi accesi, distante il cuore, l'anima inefficiente gli permetteva battiti avvizziti e nelle vene, nelle arterie ho tenuto per anni un coagulato sangue. Così ho dimenticato i corsi delle notti e le albe, nelle loro viscere la tenerezza e la passione, nemmeno la gioia del sogno, poiché io non c'ero. Il dolore e le mosche, prima. Hai logorato la tua anima mia nel mio campo santo, hai riempito di fede la mia qua santiera, eri pioggia, hai nidicato sui miei semi, invigorito crisantemi tra le mie mani, convertito le mie mestruazioni, hai percorso la mia follia, l'hai glorificata, hai scavato fino in fondo i limi, hai lasciata col silenzio dei vermi, così bianca e fredda nell'avida tomba e della sepoltura, nelle mie carni tu hai lasciato a me il dolore e le mosche. Concludo con tre epitafi. Epitafio primo, oppure del corpo solo. Due finestre e la porta sta socchiusa, ferita aperta sul tuo corpo in una bara. E lì, sotto al tuo orizzonte lasciato, l'acqua santiera a dirti ogni volta un saluto, benché poche le volte a te corpo solo. E sei, dunque, in questo luogo, mia deposizione spopolata, pietà deserta, con reliquiario ai lati. Ti fanno esse, assurda veglia, le ossa di due nomi forestieri, sangue placidi ed abbondanti, compagni sconosciuti di ultima fermata. Epitafio secondo, in febbraio, oppure del nostro nome. Noi che sappiamo i nostri nomi, cosa porta un nome soltanto, solamente il nome di chi sta lì dentro la propria immagine? In questo scatto le nostre vite, ognuna di esse deposte in uno sguardo che chiamiamo per nome, seppure lì dietro di noi l'inevitabile riassunto di chi siamo stati, il merito ora compresso dentro all'unica immagine scelta per amore o per altro. Epitafio che verrà in seguito. Porterò ogni dubbio, ogni causa di lamento. Terrò nelle mani la matrice dei giorni malfatti, non ci sarà coppia. In questi versi, mio lontano monologo, mi rimarrà scritta la coscienza di essere stata incerta sempre. io cercherò di rispondere. Ritengo di poter dire ora che la poesia è il percorso dentro al quale voglio continuare. È ovvio che c'è una ricerca letteraria anche nella crescita di una persona, no? Si inizia con un modo, con una maniera della scrittura. E però poi la poesia, se si inizia a frequentarla veramente, diventa un obbligo anche di un obbligo di espressione. Non riesco più a, o credo insomma che non riuscirei più a dividere la mia vita dalla poesia e viceversa. Che idea della vita comunica la sua poesia? Dopo questa lettura non so se posso rispondere o se una risposta sia efficiente. L'idea della vita, diciamo così, quindi la fiera ci vuole una persona, non una persona, ci vuole un luogo e ci vuole un tempo per tutto, e così anche per scrivere poesia. L'idea della vita per me è l'idea della bellezza, ma la bellezza poi comprende tutto, no? C'è una totalità che la poesia non può evadere, la poesia non può scartare, la poesia deve pronunciarsi nel proprio tutto, no? E quindi è ovvio che tra la bellezza che capiamo noi e una cultura non c'è diversità. Per la poesia non è possibile questo. Quando lei scrive, l'interlocutore non lo sa, la domanda è: per chi scrive? Sì, uso spesso questa immagine dell'amico mio, no? È comunque di un qualcuno che mi sta davanti o insomma al quale io sto parlando. La mia scrittura viene sempre ad alta voce e nascono come delle litanie, perché continuo a scrivere e riscrivere i versi, la poesia, anche se solo per l'ultima parola dell'ultimo verso ho bisogno di scrivere da capo la poesia intera e a voce. Ed succede quindi un dialogo che però non posso ascoltare solo io, un dialogo che rivolgo a qualcun altro, però è un dialogo interiore. Dopodiché, una volta pubblicata la poesia, è chiaro che spera di essere tenuta in mano e di essere letta da un altro. Io devo dire, anche prima sentivo sfogliare mentre leggevo, e questo fa molto bene, no? Perché ci si sente un po' come davanti a una commissione d'esame, alle letture di poesie. Questo è molto bello, sempre una scuola, perché è vero che il pubblico della poesia è un pubblico assai ristretto, ma è anche un pubblico molto preparato, e posso dire anche nelle esperienze che ho fatto negli ultimi anni mi sono trovata a volte davanti a delle vere e proprie commissioni d'esame. Questo è splendido. Ringrazio io. Questo leggersi a vicenda, questo ascolto, l'ascolto delle parole, poi sono dei messaggi imbottiti in questo caso che Roberta affida a uno di voi, che poi uno quando rilegge, legge sempre anche un po' se stesso. Non è che uno debba incaponirsi e andare a dire ma cosa avrà mai voluto dire, perché avrà messo, c'è questa libertà. E penso che l'espressione più alta dello scrivere sia la poesia, perché la lettura nella letteratura uno tendenzialmente è portato a dilungarsi, a proiettarsi anche altrove. Una scrittura in verticale invece, scusami se ho scritto tante pagine ma non ho avuto tempo di scrivere di meno, solitamente quando abbiamo fretta scriviamo tanto, invece il prendersi tempo, l'ascoltarsi, la parola deve avere ancora un peso e può averlo, e la poesia secondo me è una forma di espressione di cui noi abbiamo bisogno. Dicevo inizialmente, in Nuce siamo tutti poeti. Quando noi andiamo a un concerto, una mostra, nei boschi, a passeggiare, scriviamo le nostre poesie, se ci soffermiamo. Ci è dato. Quindi non ridurre tutto a una, solitamente, sempre più questi messaggi, ve l'ho detto 5 minuti fa, ma adesso ho cambiato idea. Sembra che tutto si riduca a un tweet, si riduca a un sms, un acronimo che vuol dire siamo meno soli, forse. Ecco, l'utilità secondo me è un farsi bene a vicenda, e mi è piaciuto quello che ha detto, la bellezza, cioè il dono che noi abbiamo della vita. Cioè, poniamoci un interrogativo: se non fossimo nati, che peccato. Grazie Marco. Io, se va bene per il pubblico, concluderei con la poesia. Sì, questa poesia che vi voglio leggere si chiama Del vivere consueto, e mi chiamò padre Lino di Pietralba e mi chiese una biografia. Mi disse: ma Roberto, scrivi qualcosa di te, qualcosa della tua vita, non so. E insomma, allora gli ho consegnato questi versi. Del vivere consueto. L'amo così, profumata di ultime erbe incolte, respinte per indifferenza sulle chine contorte. Difficile comprendere il silenzioso novembre, i luoghi che ogni anno di più reclamano il rischio sommesso della falce. È una verde urgenza servita a niente. Io ti parlo da semplice condizione, senza narrazioni sacre di avvenimenti, senza racconti in dottrine, di imprese, di gesta, senza le origini di dei e di eroi. Riservato campo il mio, in cerca solamente di zitte presenze e del comune esistere, poiché il tempo in questo luogo è morsa di accadimento sempre uguale. Casa mia è il maso, dentro al quale fluiscono anni e coscienza, cadenza che non chiede il permesso di rinunciare ad ogni sguardo, in ogni angolo il suo passato, epifania presuntuosa di generazioni avvenute, isolata vita la nostra, durata giusta, che ha da spartire i mesi tra i pochi pieni raccolti al sole e il loro fruscio ruminato al buio, e l'arresto passante e silenzioso rimanere quando il tuo ritorno. L'amo così, lungo il colmo di abeti in pastore di quiete, quando si fanno orlo i freddi campi, le nutrite nubi, e si leva una conversazione muta tra libertà e misericordia. È congiuntura che accade una volta soltanto dentro l'anno. Chi torna da greppie riempite lo sa, e sa che il momento prima della neve ha un odore. Ma soprattutto l'amo nella misura di chi sa scegliere un'erba dall'altra e condividere due silenzi di dovere, differenti soltanto per un gesto tracciato da un segno di croce. Civiltà contadina contata ormai in poche mani, mentalità imprescindibile, semente nostra da salvare, possidente di manualità che non conosce giorno di riposo e tiene il merito a fronte alta di abitare la montagna. E dunque espongo in questi versi a te che passi un punto di vista, che una stalla non è il volto della modestia, bensì il tornaconto dei concimi versati, e traccia immutabile di rinnovamento il beneficio di un vivere consueto, lasciato in abbandono dei tanti. Ciò che conosciamo da sempre, ora ci succede di riconoscere soltanto. Grazie. Bene, tutta la biblioteca ringrazia Roberta D'Appunti, Marco Forni e anche voi, venuti così numerosi questa sera. Vi ricordo che è possibile acquistare una copia dell'ultima raccolta di poesie grazie alla presenza della libreria Ubi questa sera. E a presto.